Il motivo essenziale è una riforma delle pensioni che aumenterà l'età pensionabile, ma soprattutto diminuirà il livello delle pensioni, cioè diminuirà materialmente l'assegno pensionistico per moltissime pensioni. Quindi il motivo essenziale è questa riforma delle pensioni per punti che il governo sta portando avanti, ma in realtà la riforma delle pensioni è il punto di arrivo di 2 anni di politiche economiche e politiche sociali che vanno in una direzione abbastanza chiara, che riducono i diritti per i lavoratori, che riducono i diritti anche per i dipendenti pubblici. Quindi diciamo che questa riforma delle pensioni è in qualche modo un pretesto positivo per una mobilitazione che vuole opporsi in toto alle politiche economiche che sono neoliberiste, che il governo e che Macron in quanto presidente hanno portato avanti in questi 2 anni e mezzo. Quindi è un punto di arrivo, ma anche il punto di partenza di una mobilitazione che in realtà potrebbe andare avanti, perché lo sciopero è, diciamo così, fissato per il giorno di oggi, ma che potrebbe appunto continuare anche nei prossimi giorni. Ma è interessante vedere anche come Macron e il governo francese abbiano presentato questa riforma spacciando per privilegi i 42 regimi speciali che sono previsti appunto dal sistema pensionistico francese. In questi anni di presidenza Macron siamo stati abituati a questa retorica, a questa narrazione focalizzata sul tema del privilegio. Per esempio, anche lo scorso anno, quando c'è stata la grande mobilitazione dei lavoratori delle ferrovie, molti in area governativa e nel partito di maggioranza sottolineavano appunto il fatto che lo status di ferroviere fosse uno status privilegiato, quindi cambiare questo status era necessario per avere più giustizia. Lo stesso per le pensioni, per questi 42 regimi. Anche oggi Repubblica, con Anaïs Ginori, fedele al potere infrafrancese, mette l'accento su questo aspetto. In realtà è chiaramente un ribaltamento della narrazione, cioè quello che Macron dice, questi privilegi in realtà sono diritti che vengono appunto ridotti, è così poi anche in tanti altri contesti, ma quello che è più interessante è come in area governativa e nella maggioranza molti mettono l'accento sul fatto che, l'ha detto anche il presidente della Camera, Richard Ferrand, si tratta di una manifestazione per conservare, perché secondo il governo, secondo la Repubblica Marche Macron, i manifestanti vogliono conservare diritti acquisiti, vogliono conservare dei privilegi. In realtà tutte queste manifestazioni si oppongono a politiche che hanno ridotto i diritti, non i privilegi, perché chiaramente nella retorica neoliberista i privilegi sono poi i diritti, banalmente, ma non mi meraviglia, perché l'incapacità di ascoltare di questo governo è patente. A questa manifestazione per le pensioni non partecipano soltanto i sindacati, non partecipano soltanto i lavoratori, partecipano al contrario, in una convergenza anche in questo caso delle lotte, gli studenti, perché è un periodo di mobilitazione anche per gli studenti universitari, partecipano tanti lavoratori di tanti settori, partecipano i lavoratori dei trasporti pubblici che appunto oggi non sono garantiti e che saranno in una situazione problematica anche nei prossimi giorni, convergeranno poi anche i gilet gialli. Quindi non è chiaramente il tema delle pensioni quello centrale, il tema centrale è in che direzione, in che senso sta andando questo paese e in che modo queste politiche liberiste danneggiano la vita di ciascuno. Hai fatto riferimento ai gilet gialli, c'è una sorta di saldatura tra chi scende in piazza oggi e questo movimento? Sì, c'è una sorta di saldatura. In realtà anche in passato molte delle manifestazioni dei gilet gialli sono state comunque partecipate anche da sigle sindacali o comunque da persone vicine ai sindacati, in particolare a Solidaire ma anche alla CGT, quindi molti gilet gialli parteciperanno alla manifestazione di oggi proprio per mostrare come questo sciopero sia poi il simbolo di qualcosa di molto più profondo. Io penso che questo sia più che uno sciopero sulla riforma per le pensioni, proprio un momento di raccolta, di convergenza fra tante lotte che in questi 2 anni hanno avuto una visibilità e hanno avuto un ruolo, tra cui quella dei gilet gialli, lotta che chiaramente ha visto il presidente vincere, perché questa mobilitazione così esplosiva all'inizio poi non ha dato seguito a effettivamente qualcosa di più profondo, però è anche importante ricordare come poi in realtà i gilet gialli continuino ad esistere, continuino a mobilitarsi, dimostrando di essere una delle tante voci del disagio che si respira qui in Francia. Sciopero ad oltranza, addirittura fino a Natale, ha dei precedenti in Francia che hanno portato anche a delle dimissioni di governi, insomma. sì, negli anni 90 c'è stato questo, ci sono stati bracci di ferro importanti, sempre per il tema delle pensioni, tra l'altro nel 1995. Io non penso che ci sarà una caduta del governo o una dimissione, perché in realtà ci sono tanti fattori, anche se lo sciopero durerà di più, anche se oggi lo sciopero ha un'adesione in certi settori vicina alla totalità, quindi vicina al 100%, è anche chiaro che con una maggioranza così importante di 2/3 del Parlamento e con un potere che è in qualche modo così incancrenito e così anche capace di occupare queste posizioni senza essere scalfito e senza avere la capacità di ascoltare le piazze, di ascoltare il disagio, dubito che ci sarà l'umiltà di farsi qualche domanda sulla direzione in cui si va. Lo stesso è successo lo scorso anno con il Gilet Gialli, si è trattato di manifestazioni senza precedenti, tanto che in un certo momento si era parlato, si era ipotizzato che insomma Filippi, il primo ministro, sarebbe stato sostituito. Così non è stato. Macron ha costruito una grande consultazione nazionale per mostrare, almeno far finta di parlare con le persone, qualcosa che non ha portato ovviamente a niente. Ma siamo in una fase in cui chi ha il potere, in particolare il partito di Macron, il suo partito personale, la Repubblica en Marche, non ha nessuna connessione con la realtà, non ha nessuna voglia di, diciamo così, mettere in discussione una linea politica che è la linea politica dei grandi gruppi industriali, dei grandi gruppi finanziari, che in questi 2 anni sono stati ampiamente ringraziati del sostegno dato a Macron durante le presidenziali a livello anche mediatico. Quindi io credo che la situazione sia molto complicata, perché al di là della mobilitazione, alla quale io adesso per esempio sto andando in manifestazione nella mia città, c'è da parte del potere di chi lo esercita l'incapacità e la non volontà chiaramente di mettersi in discussione, ma al contrario, attraverso questo lessico armonico si discute insieme, si va avanti insieme, la volontà insomma di far passare riforme neoliberiste che danneggiano la vita delle persone, dando una sfumatura di partecipazione, di consultazione popolare, ma senza effettivamente la capacità di incidere sul disagio delle persone, che si respira in tantissimi ambiti, per esempio anche nell'ambito universitario, dove insomma la situazione per molti studenti è grave, come alcuni gesti nelle ultime settimane ci hanno raccontato.